Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Mafia, i giudici non inseguono fini politici, dice il ministro della giustizia Alfano. Schifani, no ai teoremi. Influenza attesa per l'ordinanza sulle vaccinazioni per chi lavora nei servizi pubblici essenziali, riguarderà almeno 1,5 milioni di persone. In luglio recupera la produzione industriale e dall'OCSE prospettive positive per l'Italia. Napolitano chiede sostegno ai redditi. L'America ricorda l'11 settembre all'insegna del volontariato, in 250.000 oggi saranno impegnati in opere di bene. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. In primo piano, come spesso accade in questi giorni, quel che sta succedendo alla scuola di formazione del Popolo della Libertà. Ieri è stata la volta di Gianfranco Fini, oggi invece tocca al ministro della giustizia Angelino Alfano e anche al presidente del Senato Renato Schifani. La cronaca in diretta da Beatrice Vergari. Beatrice. Sì, buongiorno. Dopo l'intervento ieri del Presidente della Camera Fini, come dicevate da studio, oggi sono arrivate le puntualizzazioni sulle ipotesi di riapertura delle indagini sulle stragi mafiose degli anni 90. Il Ministro della Giustizia, Angelino Alfano, ha detto: se vi saranno elementi per riaprire i processi sulle stragi, i magistrati lo faranno con coscienza e zelo e siamo convinti che nessuno abbia intenzione di seguire disegni politici, ma solo un disegno di verità. Dopo il guardasigilli è toccata al Presidente del Senato, Renato Schifani, che ha concluso da pochi minuti nel nostro paese, ha dichiarato alla platea del PDL: la libertà di stampa è garantita, non vedo nubi che possano, seppur minimamente, limitarne l'esercizio, ma sentiamo il suo richiamo. Voglio levare alto il richiamo a tutti i politici e giornalisti a confrontarsi in modo vero sulle questioni che attraversano la vita del nostro paese, nel comune interesse nazionale e con la consapevolezza di contribuire a costruire istituzioni più forti all'altezza delle sfide del nuovo millennio. La libertà di stampa nel nostro paese è garantita. E nel ringraziare Beatrice Vergari, le agenzie stanno battendo adesso nuove dichiarazioni di Renato Schifani, che dice sia la lotta senza quartiere alla mafia, ma attenzione invece a riproporre teoremi politici evocando fantasmi di un passato lontano. Passiamo a parlare adesso dell'influenza A, perché saranno 1,5 milioni gli appartenenti ai servizi pubblici, lavoratori dei servizi pubblici essenziali, ad essere vaccinati contro l'influenza A, saranno i primi. È una delle indicazioni contenute nell'ordinanza che verrà firmata oggi dal Vice Ministro della Salute Ferruccio Fazio. Sia le regioni che i medici lo chiedevano per organizzare l'attività sanitaria e dare risposte precise ai tanti dubbi dei pazienti. E oggi il Vice Ministro Fazio dà il via libera all'ordinanza del Governo sulla nuova influenza, per chiarire anzitutto quando inizierà la campagna per la vaccinazione e quali sono le categorie interessate. I primi ad essere vaccinati saranno 1,5 milioni di persone dei servizi pubblici essenziali, personale sanitario, scolastico e di polizia, ma anche lavoratori di banche e poste, protezione civile, le aziende pubbliche di trasporti ed energia e i donatori di sangue. Non rientrerebbero invece in questa primissima fase nelle forze armate né i parlamentari. In una seconda fase il vaccino verrà somministrato alle persone con gravi problemi di salute e ai giovani dai 2 ai 27 anni. Il vaccino contro l'influenza A arriverà entro il 15 novembre, ma potrebbe essere già disponibile a fine ottobre. 48 milioni le dosi ordinate dal Ministero della Salute. Non sarà obbligatoria la vaccinazione, ma evidentemente è opportuna in particolare agli appartenenti ai servizi pubblici essenziali, non tanto per la pericolosità della pandemia, quanto per la grande facilità di diffusione del virus. Adriana Fracchia, GR24, il sole 24 ore. È intervenuto questa mattina nella nostra trasmissione Essere e Benessere il virologo del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Milano, Fabrizio Pregliasco, che così spiega quanto è importante fare la normale vaccinazione anti-influenzale. Determinante, a mio avviso, mantenere alta l'attenzione al vaccino stagionale e cominciare subito con il vaccino stagionale in modo da garantire delle coperture che a tutt'oggi purtroppo non ci soddisfano completamente, perché siamo circa solo al 60% di anziani ultra 65 anni che si vaccinano e un 20% circa dei gruppi a rischio. Il problema di quest'anno è che comunque questi virus stagionali ci saranno come sempre una triade, tutti e tre di origine australiana. australiana, e l'impatto complessivo dei casi di influenza vedrà sicuramente un loro contributo importante a questo concerto di malattie. È stimabile che un terzo dei casi complessivi siano appunto dovuti a questi virus, il resto a quello nuovo. Quindi è importante, anche perché questo tipo di vaccino è già disponibile nelle quantità storiche usuali, fornito, acquistato per essere distribuito, quindi credo valga la pena di mantenere l'appuntamento per questa parte di vaccinazione, mentre il vaccino pandemico potrà essere in qualche modo disponibile solo per un iniziale segmento di popolazione più limitato. Siamo ad una storia di cronaca che arriva dalla Bergamasca: la rimozione della targa alla memoria di Peppino Impastato, decisa dal sindaco di Ponteranica, il leghista Cristiano Aldegani. Una cosa indegna, secondo Giovanni Impastato, il fratello di Peppino. Ma quali ragioni porta il sindaco Aldegani? Lo ha intervistato Cristina Carpinelli. Era solo per intitolare la biblioteca, il luogo della cultura per eccellenza, a un personaggio locale come padre Giancarlo Baggi. C'era così tanta urgenza di fare questa cosa? Mi sembra più un pretesto. No, no. A sto punto mi arriva la lettera di Libera alla sezione di Bergamo, in cui chiede un incontro. Ci siamo incontrati, ci siamo trovati, ho esposto le mie ragioni, loro hanno esposto le loro, e ci siamo lasciati dicendo: guardate, settimana prossima avremo la giunta, porterò la questione, la settimana successiva facciamo la giunta, racconto agli assessori presenti che abbiamo avuto un incontro, e quindi questa cosa, che non era una priorità, perché assolutamente non era una priorità, l'hanno fatta diventare una priorità. Impastato, sì. Che fosse del nord o del sud, è stata una delle persone che senza quasi strumenti per difendersi si è battuto contro la mafia. Ma ora, assolutamente, resti questo, nella storia, sì, anche di un paese piccolo del Bergamasco, la memoria è un segno di riconoscimento a una persona così, che ha fatto anche dell'innovazione culturale, quindi ci sta anche che sia all'interno di una biblioteca. Non capisco cos'è che infastidisce, cioè cos'è che dà fastidio. Assolutamente niente, tant'è vero che ho ribattuto che come passato ci sarebbero centinaia di persone da ricordare per la lotta con la mafia. C'è stata un'operazione che ha affiancato la figura di Impastato a qualcun altro? Qual è la sostituzione di una figura come Impastato con un'altra figura? Ripeto, noi vogliamo, e l'avevamo già detto, non è questione di ma intitolare un luogo della cultura per eccellenza come la biblioteca, essendo noi della Lega molto legati al territorio, a una persona a noi vicina del territorio. E un'altra storia di cronaca che arriva invece da Livorno, dove resti antichi emersi quest'estate sono stati ricoperti per mancanza di fondi. Messa in sicurezza. Torna sotto uno strato di terra e ghiaia una scoperta epocale per Livorno, il Portus Pisanus di origine romana. Immenso, lungo oltre 10 chilometri, portato alla luce dalle ruspe della soprintendenza all'inizio di agosto durante gli scavi per un capannone alla periferia della città toscana. 6 anni di ricerca serrata, poi finalmente spuntano i resti, ma dopo pochi giorni il ritrovamento viene sotterrato. Non ci sono i fondi per la conservazione e l'utilizzo dell'area, nonostante la stessa soprintendenza giudichi l'intervento prioritario. L'assessore comunale alla cultura Mario Tredici. Il problema delle risorse è fondamentale. La sovrintendenza ha esaurito con questo, così mi è stato detto, ha esaurito con questo cavo i fondi disponibili. Adesso aspettiamo il 2010 per vedere se si riaprono delle possibilità. Le sovrintendenze hanno dei budget che vengono alimentati in base a finanziamenti dello Stato. Se i finanziamenti alla cultura vengono sistematicamente tagliati, vengono falcidiati in tutte le direzioni, dallo spettacolo ai teatri, al cinema, le conseguenze sono che i progetti vengono colpiti alla radice. Non solo le fonti antiche hanno trovato conferma, ma sono soddisfatti anche i livornesi, che in rivalità con i pisani avevano sempre sostenuto che l'antico porto fosse nel loro territorio. Ricoprirlo però è stato l'unico metodo. La zona dove si trovano questi scavi era una zona, come dire, prossima al mare. Siamo a distanza ora, con i riempimenti dovuti a processi secolari, distanza di 3-4 km dal mare. Come si scava, si riempiono di acqua. Unica consolazione: restando 2 metri sottoterra, nessuno sciacallo potrà metterci le mani. Anna Marino, GR24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla giornata del ricordo per gli attentati dell'11 settembre 2001, quando, lo ricordiamo, morirono oltre 3.000 persone tra New York e Washington. Noi ci colleghiamo con Washington, con Luciano Clerico. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora Luciano, è un 11 settembre che si celebra all'insegna del volontariato. Sì, non solo, è una delle tante iniziative che sono state prodotte qui negli Stati Uniti Personalmente ho notato che vi è questa tendenza rispetto agli anni scorsi, passare dal lutto al ricordo in modo, come dire, allargando sull'America, non un senso di partecipazione è evidente, ma con anche un certo distacco dal senso della tragedia. Faccio un esempio per essere più chiaro. Sono cominciati quest'anno per la prima volta dei corsi scolastici in scuole pubbliche e private, tutti mirati dedicati all'11 settembre. Si tratta proprio di un curriculum di studi, gli studenti sono studenti delle scuole medie e dei licei, sono chiamati a studiare nel corso dell'anno una materia che si chiama proprio 11 settembre. Hanno preparato un DVD, le autorità scolastiche, e un libro di testo di 167 pagine, è stato distribuito in molte scuole, e tra gli studenti che devono studiare l'11 settembre vi sono anche dei ragazzi che l'11 settembre del 2001 non erano nati, perché hanno cominciato ad andare a scuola adesso, hanno 8 anni, e però sono tenuti come americani a sapere cosa è successo. È evidente che dal loro punto di vista l'evento è completamente diverso rispetto alla gran parte degli altri americani. Questo esempio dà un po' il senso di come l'America vive l'11 settembre. Obama oggi andrà, esattamente come ha fatto Bush lo scorso anno, al Pentagono, dove l'America ha costruito il Memorial Nazionale, un monumento grandissimo dedicato ai caduti dell'attentato di Washington, ma che di fatto rappresenta simbolicamente tutta la giornata, e lì ricorderà che l'America è ancora in emergenza terrorismo, ricorderà che ieri ha ribadito la dichiarazione fatta il 14 settembre 2001 dalla Casa Bianca, che certificava un allarme terrorismo in tutta per tutta la nazione, e quell'allarme terrorismo continua. Per cui l'America, come dire, vive l'11 settembre nel segno del ricordo, nel segno della storia, ma meno nel senso della tragedia. Grazie dunque a Luciano Clerico in diretta da Washington, e noi passiamo a parlare di un americano, meglio di un italo-americano illustre che è morto nei giorni scorsi. Parliamo naturalmente di Mike Bongiorno, perché con una folla silenziosa e gli occhi puntati sulle sue immagini si è riaperta la camera ardente. Domani i funerali, le voci di chi gli ha voluto rendere omaggio alla Triennale di Milano. Ciao Mike, nei nostri cuori ci sarà sempre, perché io sono cresciuta con lui, dunque era piccola, ma me la ricordo. Allora il televisore era in bianco e nero. È stato uno shock quando l'avevo sentito, che non è possibile. Eppure, peccato, se n'è andato un grande. Mi ha colpito sempre la sua allegria che ha trasmesso alle generazioni, intere generazioni, bambini che sognavano ascoltando la sua voce. Anche se eri demoralizzata, dimenticavi tutto e pensavi alle sue belle parole. È un'altra epoca che si spegne, non rimane più nulla. Domani, moltissima gente, chissà, è un'enormità. È come se fosse mancato qualcuno di famiglia, lo vedevi in televisione, lo vedevi nei vari programmi, da piccola, da un po' più grande, da grandi, non erano solo applausi, mai critiche. Io ho 47 anni, mi ricorda Rischia Tutto, la scuola, mi ricorda la mia mamma che non c'è più da parecchi anni, mi ricorda tutti gli odori che si sentiva 40 anni fa. Posso fare a meno di commuovermi? Che bello essere persone che lasciano dei ricordi bellissimi. Ho scritto solo una piccola frase: sei stato un grande. Veronese. Sono venuto stamattina, ci tenevo particolarmente, insomma. Ho letto sui giornali che qui è stato il luogo in cui ha fatto la sua prima trasmissione. Grazie per tutto l'ottimismo che ha dato nella sua vita, che ha insegnato a tutti. Ho visto gente con le ciabatte, ho visto persone in calzoncini corti. Sì, tanta curiosità. Uno pensa che si senta... Senti quasi in diritto e in dovere di fare un saluto a quest'uomo, insomma è stato bravo, ecco. In chiusura, brevemente, con il cinema, dalla Mostra di Venezia c'è la nostra inviata Marta Cagnola. Notizie di giornata, Marta? Ma insomma, continua il grande successo di Soul Kitchen di Fatih Akin, che in concorso è stato presentato per la prima volta ieri. Grandi applausi e ovazioni per la storia di un immigrato greco proprietario di un singolare ristorante. Un sacco di guai, sia il ristorante che il proprietario. Ma soprattutto c'è stata la prima proiezione del film di Tom Ford, cioè lo stilista Tom Ford, famosissimo, in concorso anche lui con il suo esordio, tratto dal romanzo di Christopher Isherwood, Un uomo solo. Un film molto molto molto patinato, potevamo immaginarcelo, una messa in scena perfetta in maniera maniacale, un Colin Firth molto bravo, una Julianne Moore altrettanto brava, insomma niente male sicuramente a livello estetico, è degno di uno stilista e questa è la sua cifra distintiva. 13:19 minuti 47 secondi. Nella prima parte del GR abbiamo parlato delle parole del ministro della giustizia Alfano, che dice i giudici non inseguono fini politici, se si riferisce alle inchieste sulla mafia. Abbiamo parlato di influenza e ne riparleremo fra un attimo, e abbiamo parlato dell'America che ricorda l'11 settembre, gli attentati di 8 anni fa. Adesso parliamo di appunto influenza. E lo facciamo con le notizie che stanno arrivando in questi minuti dal vice ministro del welfare Ferruccio Fazio, che come si diceva ha firmato l'ordinanza. Da quel che si apprende, la somministrazione del vaccino sarà fatta al 40% della popolazione, sarà distribuito alle regioni e province autonome nel periodo compreso fra il 15 ottobre e il 15 novembre del 2009. Tra i vaccinati, secondo le notizie che stanno diffondendo in questi minuti le agenzie, ci saranno anche i bambini e le donne incinte. E ora l'economia, iniziando dai dati che sono stati diffusi questa mattina dall'Istat. Certamente una rondine non fa primavera e forse non ne bastano neppure due, ma i dati diffusi oggi dall'Istat sulla produzione industriale a luglio e le previsioni dell'OCSE per l'Italia possono almeno far sperare. Secondo l'Istat, la produzione industriale a luglio è cresciuta dell'1% su base mensile, mentre si registra un calo del 17,5% annuale. A determinare l'aumento sono i beni di consumo non durevoli e i beni intermedi che servono, cioè, a produrre altri beni. Continua invece il momento negativo del settore auto, con un calo dell'indice del 26%. Questo mentre l'OCSE vede forti segnali di ripresa nelle economie di gran parte dei paesi industrializzati. Tra i paesi che hanno registrato un incremento maggiore del superindice, lo strumento messo a punto per anticipare gli andamenti del ciclo economico relativo a luglio, figura l'Italia, che ha recuperato 2,7 punti su base mensile e 8 punti rispetto a luglio 2008. Per il nostro paese l'OCSE prevede una possibile espansione dell'economia nei prossimi mesi. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. E di crisi economica ha parlato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, inviando un messaggio al convegno Povertà e Nuovi Bisogni. Secondo Napolitano ci vogliono politiche di assistenza, sostegno al reddito e inserimento nel mercato del lavoro per contrastare appunto gli effetti della crisi, soprattutto al mezzogiorno. Andiamo in provincia di La Spezia, dove c'è un incendio con un fronte enorme che si sta sviluppando in queste ore. La situazione da Andrea Ferro. Andrea. Sì, buongiorno. In Liguria non si placa questa emergenza di fine estate dopo i roghi che all'inizio della settimana hanno divorato le alture di Genova. Ora è allarme rosso nello Spezzino. A Carrodano le fiamme hanno già distrutto 300 ettari di vegetazione e nel corso della serata di ieri hanno attaccato un campeggio e un agriturismo che sono stati sgomberati in tempo. Il fronte del fuoco è di oltre 6 chilometri. Dall'alba, oltre alle squadre da terra, 3 Canadair partecipano alle operazioni di spegnimento, sempre in provincia della Spezia. Nei giorni scorsi gli incendi avevano assediato le Cinque Terre. Nelle ultime ore in Liguria ancora fiamme alle spalle di Genova e dell'entroterra del Levante, in particolare nella zona di Lavagna, dove un piromane sarebbe stato immortalato da una videocamera. Per il momento da Genova è tutto, ti restituisco la linea. Grazie ad Andrea Ferro. Nelle scorse settimane, negli scorsi giorni, si è parlato moltissimo del tema dell'ora di religione, è stato al centro di un acceso confronto politico e non solo. Su questo tema naturalmente è intervenuta anche la Chiesa. A questo oggi era dedicato il nostro sondaggio. Sentiamo com'è andato. Considerare la religione una materia a tutti gli effetti, come la matematica, l'italiano, con la stessa parità di insegnamento nelle nostre scuole? Era questo il nostro sondaggio di oggi e gli ascoltatori si sono mostrati con le idee chiare. Il 75% dice di no, nonostante la richiesta di dare pari dignità all'insegnamento religioso da parte della Congregazione Vaticana per l'educazione cattolica. Tra la minoranza favorevole a reinserire la religione come materia obbligatoria c'è l'onorevole Paola Binetti del Partito Democratico. Io credo che la religione abbia necessità di recuperare questa dignità culturale specifica in ogni paese, in ogni situazione e diciamo in ogni gruppo che si riconosce in una serie di valori. Bianco o Nero torna lunedì alle 8:30 per votare il nostro sondaggio www.radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Prima di aprire la pagina sportiva vera e propria, vi raccontiamo una storia di sport, che arriva dall'Africa. Youssouf corre, dribbla un paio di difensori e con un potente destro insacca il pallone in rete. Youssouf ha 16 anni ed è una giovane promessa del calcio. Studia e si allena tutti i giorni, almeno 3 ore. La nazionale lo sta tenendo d'occhio. Fin qui una storia come tante altre, fatta di sport e di passione. Se non fosse che Youssouf, come altri 800 ragazzi, tira calcio a un pallone a Mogadiscio, in Somalia. La città più pericolosa del mondo si sforza di trovare scampoli di normalità fra colpi di mortaio, offensive Shabab e incursioni di bande armate. Il polveroso campo da calcio dell'Helman Football Club ci accoglie all'alba. Il vecchio campo non è più sicuro in quanto in una zona controllata degli insorgenti Shabab. L'allenamento inizia alle 7 del mattino e dura circa 3 ore. Dopo il caldo si fa insopportabile. Gli 800 ragazzi del campo, tra cui anche i nazionali, giocano a football sognando Anelka ed Eto'o, il Chelsea e l'Inter, e poi vanno a scuola. E così, mentre al Medina Hospital arrivavano gli ennesimi feriti per le battaglie in corso, la capitale somala si sforzava di vivere un po' di tranquillità. Gli adolescenti della città non sanno che cosa voglia dire vivere in pace, escono di casa la mattina e non sanno se torneranno. E così anche il servizio di chat del gestore telefonico locale, che permette ai teenager somali di chiacchierare e di conoscersi, diventa una surreale ma efficace via di fuga dall'inferno. Giampaolo Musumeci, GR24, Il Sole 24 Ore, Mogadiscio. La pagina sportiva vera e propria si apre con la Formula 1, perché a Monza è iniziato questa mattina il weekend dedicato al Gran Premio d'Italia, con la novità Fisichella alla guida della Ferrari. L'esordio del romano è stato convincente, l'inviato. L'esame conta fino a un certo punto, perché pur sempre di prima sessione di prove libere si tratta, ma esordire al volante della Ferrari, che ha sognato per una vita sul palcoscenico più prestigioso, Monza, poteva togliere il fiato anche a un 36enne da anni protagonista del circus. Ma Giancarlo Fisichella non delude, anzi, dopo qualche errore di troppo alla prima variante alla Ascari, il fisico prende il ritmo e chiude 8° davanti a Raikkonen, 10° e a 8° da Hamilton, il migliore. Nel paddock però tiene banco soprattutto il caso Renault nel Signo Piquet, col pilota brasiliano che ha denunciato alla FIA di essere stato costretto dal team a causare un incidente nel Gran Premio di Singapore 2008 per favorire la vittoria di Alonso, suo compagno di squadra. Stamattina incontro Eccleston Briatore. Di cosa abbiamo parlato? Di calcio? Prova a scherzare Bernie. Ma nuovi processi e carte bollate sono in arrivo. Per fortuna che già alle 14 si torna in pista con la seconda sessione di libere. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore, Monza. E sempre per il weekend sportivo, domani torna la Serie A con 2 anticipi della terza giornata, Livorno-Milan e Lazio-Juventus. Questa sera l'anticipo di B sarà Modena-Lecce, in campo alle 20:45. Infine, l'atletica leggera, ci sono novità importanti nel caso di Caster Semenya, atleta sudafricana che ha vinto l'oro negli 800 ai mondiali di Berlino e la cui femminilità è stata messa in dubbio. La notizia, se confermata dalla IAAF, la federazione internazionale, avrebbe del clamoroso. Secondo la stampa australiana, che ha interpellato fonti accreditate, infatti, dagli esami cui è stata sottoposta l'atleta sudafricana prima dei mondiali di Berlino, emergerebbe che Caster Semenya è un ermafrodito, essendo dotata sia degli organi sessuali femminili che maschili. Inoltre, il livello di testosterone sarebbe 3 volte più elevato della media. Abbiamo chiesto un parere a Giorgio Rondelli, tecnico dell'atletica e commentatore TV. Probabilmente la IAAF aveva già visto che c'era qualcosa che non andava, o aveva anche un po' suggerito alla federazione sudafricana di non farla gareggiare in mondiale, e logicamente la federazione sudafricana pensava che Semenya potesse vincere la medaglia d'oro, e quindi si è andati avanti così, una vicenda così insomma piuttosto increscioso, soprattutto anche perché insomma questa povera ragazza, ragazzo, ermafrodita o quant'altro, poi subirà sicuramente dei grossi contraccolpi dal punto di vista psicologico. Se venisse confermato l'esito dei test, Caster Semenya non verrebbe squalificata né perderà l'oro mondiale, ma potrebbe ricevere l'inibizione dell'attività agonistica e non partecipare più alle gare internazionali. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Maria Piera Cece, con in regia Carmelo Lauricella. Prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.